10. La lampadina della mia camera d'albergo si è fulminata, o forse si è uccisa. Illuminare posti come questo deve essere durissimo. Perciò leggo il giornale con un po' di luce presa in prestito dalla strada. Leggo del premio dei premi e della sicura presenza di tutti i nostri beniamini per regalarci una serata indimenticabile. Leggo di un aereo caduto in circostanze misteriose 10 anni fa, cui è stato abbinato il concorso «Chi l'ha abbattuto?». Cronaca cittadina. Un prete pazzo è penetrato in una clinica per aborti e ha mitragliato un intero reparto. Ha detto che lo guidava la voce di Dio. Anch'io avevo un amico così. Ogni tanto sentiva venire dal cielo la voce di Dio che cantava Lucille di Little Richards. Allora doveva balzare in macchina e fiondarsi in autostrada ai 180, fin quando la voce non smetteva. Però lui non ha mai ammazzato nessuno, tolti quei 300-400 gatti. Ho avuto molti amici strani. I Baol fanno amicizia in fretta, perché una delle prime cose che insegnano al Tempio è come attaccare discorso con chiunque. Non è facile, specialmente di questi tempi. L'ultima cosa che leggo è l'elogio funebre di un noto torturatore. Un mondo di tribù dove ognuno piange i suoi morti. Un Baol deve odiare i nemici. La dottrina Baol non è chiara a questo riguardo. La nozione stessa di Baol non è chiara. Il poeta Eshi condensò l'essenza del Baol in questi versi. E di notte, ci va di camminar. Il maestro Kara condensò l'essenza del Baol nel Baol Wushi, arte marziale del Baol codardo o della dignità del fuggiasco. Egli inventò 7 stili. Lo stile della tartaruga, tappati al chiuso e non venir più fuori. Lo stile del ghepardo, scappa su un albero o su un punto elevato. Lo stile del granchio, pedala all'indietro. Lo stile dello scarafaggio, nasconditi sotto qualcosa. Lo stile della mosca, fingiti morto. Lo stile della lepre, scappa più veloce che puoi. Lo stile dell'elefantino, chiama in aiuto degli amici molto grossi. Si batté, battendosela 212 volte e non fu mai raggiunto né colpito. La 213esima affrontò numerosi nemici e ne fece polpette. «Perché stavolta non sei scappato?» gli chiesero. «Non mi sentivo bene», rispose. Disteso sul letto, meditai questa difficile e indisponente essenza della mia filosofia e delle filosofie in genere. Sentii il gospel delle ambulanze e dei clacson, sentii le stelle che si consumavano e la marea della fame e della sazietà in milioni di corpi e le molle del letto gemere e gli infiniti intrecci che in quel momento si preparavano perché io potessi dirigermi verso il mio segreto. La testa mi girò per i troppi distillati di erbe ingeriti quella sera e negli ultimi 30 anni. Mi sedetti nella posizione Baol del cane mendicante col secchiello in bocca e aspettai. Il lavandino cantava Rocco. La vecchia tappezzeria Wienerbaum mi ipnotizzò con le sue geometrie. Cominciai a vedere piccole cose nere con antenne che ci correvano sopra. Poi mi sembrò che entrasse un fantasma. Era vestito di bianco e azzurro. Disse qualcosa con tono gentile. Si diresse verso il mio letto. Lì, con gesti veloci e aggraziati, iniziò a fare una danza con le lenzuola. Le faceva volare in aria, poi le faceva ricadere come solo i fantasmi sanno fare con le lenzuola. Al termine della danza, il letto, che prima recava le disordinate tracce dei miei sonni e dei miei incubi, era miracolosamente liscio e immacolato. Il fantasma aveva portato sul letto la quiete del suo mondo impalpabile. Ciò fatto mi guardò a lungo, come se attendesse un gesto da me. Poi, mormorando qualcosa, si dileguò. Il tempo passava lento. Ora vi parlerò del mio segreto. Da quando sono nato, le cose mi hanno abbandonato. Fin qui niente di strano. Incontrarsi e separarsi è il movimento unico e necessario con cui si traccia il nostro passaggio nel vuoto. Baolian, libro secondo, pagina 184. Ma per me è stato diverso. Le cose mi hanno sempre e solo abbandonato. Quando ero piccolo, giocavo con gli amici nelle strade allora alberate della città. I nostri giochi erano per lo più autoreferenziali, si diceva così tra noi bambini. Eravamo burattinai e burattini, generali e soldatini, ingegneri di piste per palline, tracciatori di limiti e confini. Erano giochi che andavano inventati e coordinati, in cui serviva perciò un fantasista e un organizzatore. Io ero bravo in tutti e due i settori. Facciamo che io ero lo sceriffo e voi gli indiani e voi mi prendevate prigioniero e io scappavo e facevo crollare la diga e l'acqua ci portava via tutti e io facevo l'inondazione col secchio. Ed ecco che, sul più bello della preparazione del gioco, mentre correvo tutto rosso e sudato a cercare penne indiane e secchi d'acqua, mi guardavo intorno e... spariti. I miei amichetti erano tutti spariti. Li cercavo per strade e vicoli, ma non li trovavo più. Magari si rifacevano vivi dopo un mese, e poi di nuovo sparivano. Perché? A 14 anni comunicai ai miei genitori l'intenzione di studiare da Baol. Già da tempo si erano resi conto che non ero adatto a una vita normale e convenivano che non c'è niente di più bello di un figlio che va per la sua strada. Feci la valigia, andai commosso a salutarli e... spariti. Non li trovai né in casa né altrove. Misi anche un annuncio sul giornale. Sono stati smarriti due genitori. Indossano lei un tailleur vigogna e un cappello con piume di dodo. Lui un pigiama rigato con ampia scollatura scrotale e pantofole marmottiformi. Rispondono ai nomi di Bedropia e Bedenek. Chi ne avesse notizie pregato... Nessuna notizia, mai più. Perché? Eppure so che mi volevano bene. Avevo un amico carissimo, di nome Piotr. Insieme entrammo nei perturbatori urbani. Lanciammo molotov di centerbe e quadrelli medievali, sabotammo semafori, saccheggiammo cartolerie, scassinammo flipper, decapitammo telefoni, liberammo visoni, immettemmo avanotti, affiggemmo manifesti, pestammo avversari, iscrivemmo proseliti, contestammo missili, coltivammo canapa, rapinammo orefici, amammo, lottammo, credemmo. Io ispirai le sue azioni e lui le mie. Le mie donne erano anche le sue, che io volessi o no. Una notte eravamo insieme a scrivere sui muri della città «assassini». Dopo di noi passava il comitato politico e aggiungeva i nomi degli infami prescelti. Stavamo dipingendo l'argine di un fiume quando udimmo le sirene della polizia. «Scappai!» gridai. Nessuno mi rispose. «Sparito!» La polizia mi catturò e il mio amico Piotr non venne in mio aiuto. «Perché?» In galera fece amicizia con un bel tipo. Si chiamava Candido. Una vita difficile. Era entrato in galera a 6 anni per aver rubato una giostra. Rifiutò di dire A, come aveva fatto, B, dove l'aveva nascosta. In carcere scoprì le parole crociate. Grazie ad esse si laureò in geografia e diventò un buon cittadino. Uscì perfettamente recuperato, tranne una piccola idiosincrasia. Non sopportava chi gli diceva «è inutile che le dica che», oppure «non devo certo ricordarle che». Ne picchiò 16 in un mese. Lo rimisero dentro. Scontò la pena. Quando fu nuovamente rilasciato, il direttore del carcere gli disse «è inutile che le dica che speriamo di non vederla più qui». Lo strangolò. Condannato all'ergastolo, si mise a fare sculture con i fiammiferi, galeoni per lo più. In cella diventammo amici e insieme elaborammo un grande progetto, la storia del mondo a fiammiferi. Ci preparammo a lungo e una notte, tutti eccitati, decidemmo che l'indomani avremmo iniziato con «la nascita dell'uomo». La mattina dopo Candido non c'era più. Sparito. Evaso. Perché? Poi conobbi lei. Alice. Alice Hauck. Ricordate questo nome? Già, ve ne ho parlato. Alta, bionda, eccetera. La incontrai nel locale dove lavoravamo tutti e due come maghi. Dopo lo spettacolo, c'era la selezione regionale del concorso Sederino d'Oro. Si aggiravano culi dentro mantelli da Ku Klux Klan. Era difficile fare conversazione. Non eravamo in giuria, perciò la invitai a ballare nella sala piccola, dove c'era l'orchestra. Dissi al pianista, «Suonami il solito, per favore». Lui attaccò il tema di Perry Mason, la sigla del mio numero con Loca. Non era proprio quello che volevo, ma ballammo ugualmente. Io le raccontai la mia vita fino a 30 anni. L'orchestra suonava «Mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo». Lei mi raccontò la sua vita fino a 22 anni. L'orchestra suonava «Zubila Mush». Io le raccontai la mia vita dai 30 in poi. L'orchestra se ne andò a dormire. Provai a baciarla e lei disse «No, ti prego, no, non ora». Io le chiesi «Perché?». Lei disse «Perché voglio che succeda nel momento giusto» e io le dissi «Questo è il momento giusto» e riprovai a baciarla e lei disse «No, ti prego, no, non ora». La donna delle pulizie cantava «Nessun dorma». Io la strinsi più forte e lei non si sottrasse alla mia stretta. Potevo sentire il suo cuore battere insieme al mio. Le dissi «Non ho mai conosciuto una donna come te» e lei altrettanto. L'orchestra era tornata e suonava i Guns N' Roses. Improvvisamente, mentre le raccontavo il mio 36esimo anno di vita e precisamente un trasloco nel quale avevo perso dei calzini a me molto cari, vidi dipingersi sul suo volto il momento giusto. La baciai, e lei altrettanto. L'orchestra applaudì lungamente e il contrabbassista venne personalmente a congratularsi. Poi io dissi: «Andiamo da te o da me?» «No, ti prego», disse lei. «La prima volta vorrei che fosse in un posto speciale». Io abitavo nella pensione Astra, alla camera 6, lei alla camera 7. Prendemmo la camera 8, matrimoniale con bagno e vista su casse di birra. Ci amammo 2 anni, 6 mesi e 3 giorni. Lei, ogni notte, si alzava e andava alla finestra. La ricordo con la schiena nuda, il lenzuolo attorno alle reni come una statua, i capelli, un'onda di splendore che traboccava le luci della notte, un dito che tracciava figure incerte sulla finestra appannata. Io mi svegliavo per il cigolio e le dicevo: «Dormi?» E lei: «No». «Pensi?» «Sì». A questo punto mi riaddormentavo. Avrei forse dovuto starle più vicino? Avrei dovuto chiederle a cosa pensava? Una notte presi 7 caffè per stare sveglio. La sentii alzarsi dal letto e andare alla finestra. Sembrava triste, forse perché quella volta la finestra non era appannata e non poteva disegnarci sopra. Aveva anche dimenticato il lenzuolo. «Dormi?» le chiesi. «Sì», disse lei. Ci pensai un po' su, poi mi riaddormentai. Forse aveva voluto dirmi qualcosa, ma io non avevo capito. Non le ero stato vicino neppure in quel momento. La mattina, quando mi svegliai, non c'era più, sparita. Perché? Il portiere disse addirittura che aveva sempre creduto che nella nostra camera abitasse una sola persona. Dov'era andata? Eppure ero certo che mi amava. È forse questo il segreto della mia vita Baol? Tanto tempo è passato. Sono sempre stato solo, da allora. Solo come ora, mentre in quest'alba violacea piloto la mia zazza rossiccia sull'autostrada grigiastra che porta fuori città, dal groviglio verso il silenzio. Attraverso polvere e ruggine che galleggiano nell'aria, là dove non è né città né campagna, né fiori né deserto, dove un sole preistorico illumina colori chimici. Passo davanti ai campi di concentramento per tossicodipendenti e ai silos di droga. Sono diretto ai palazzi del paradiso. La radio gracchia un rock malefico. Elicotteri ronzano nel cielo. Forse pioverà.